GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. La Roma ha la grande occasione per riaprire il confronto con il Manchester United dopo mezz'ora di gioco, ma Daniele De Rossi tira alto un rigore. I giallorossi ci provano anche d'inizio ripresa, ma poi arriva con un colpo di testa di Tevez il gol dello United che chiude il discorso qualificazione. I Red Devils, che Ferguson ha schierato senza gli assi Ronaldo, Rooney e Scholes tutti in panchina, vincono anche la gara di ritorno 1-0 dopo lo 0-2 dell'Olimpico. L'analisi di Luciano Spalletti. La partita doveva essere incanalata su questi binari, poi bisognava essere bravi a sfruttare qualcosa di quello che ci saremmo riusciti a procurare. Io pensavo effettivamente di poter fare anche qualcosa di meno sotto l'aspetto della quantità del gioco, ecco. Invece lì ci siamo procurati poi nel possesso palla della possibilità importante al limite dell'area. Segnando quel rigore lì avremmo potuto assistere a una partita totalmente diversa per quello che poteva creare, ecco, sia nella mia squadra che in quella del Manchester. Di conseguenza poi ci poteva star tutto. Quel gol lì avrebbe significato molto. In semifinale di Champions il Manchester troverà il Barcellona, che ha eliminato non senza soffrire lo Schalke 04. 1-0 per i Blaugrana anche al Nou Camp, come nella gara di andata in Germania. Decide in questo caso un gol di Touré. Cambiamo decisamente argomento. La Corte di Giustizia Federale ha accolto il ricorso degli arbitri Gianluca Paparesta e Salvatore Racalbuto, annullando le sanzioni inflitte dalla commissione disciplinare in relazione a Calciopoli. Paparesta, lo ricordiamo, era stato sospeso dall'attività fino al 15 maggio 2008. I suoi legali hanno già chiesto il reintegro con effetto immediato. Ora parliamo di pallavolo, fattore campo rispettato nella prima giornata dei play-off Scudetto, gara 1 dei quarti di finale. Montichiari cede solo al quinto set a Cuneo, incontro combattuto tra Roma e Macerata con due set oltre i 30 punti. Risultati dunque: Cuneo batte Montichiari 3-2, Trento batte Cimone Modena 3-0, Roma batte Macerata 3-0, Sisley Treviso batte Copra Piacenza 3-0. Ora al basket, il CSKA Mosca di Ettore Messina e il Tau Vitoria raggiungono Siena alle Final Four di Eurolega, Madrid dal 2 al 4 maggio. Vittorie larghe negli spareggi dei quarti di finale. Il CSKA batte 81-56 l'Olympiakos, che aveva vinto a Mosca gara 1. Il Tau supera il Partizan Belgrado 85-68. Oggi il terzo spareggio, Maccabi Tel Aviv-Barcellona. Chi vince affronterà proprio Siena nella semifinale del 2 maggio. Intanto da oggi a domenica il grande basket torna a Torino. Il Palavela è infatti pronto ad ospitare le Final Eight di ULEB Cup, secondo torneo continentale per squadre di club dopo l'Eurolega. Mancano all'appello le squadre italiane, eliminate sia Fortitudo Bologna che Treviso. A giocarsi la Coppa saranno le spagnole Juventud Badalona, Valencia e Girona, le turche Beşiktaş e Galatasaray, la russa Unix Kazan e i polacchi del Turov. Infine il ciclismo, una volata di 300 metri, così Oscar Freire, tre volte campione del mondo, ha vinto la Gand Wevelgem. L'iberico, sul traguardo della classica belga, ha battuto lo svizzero Aurélien Clerc e il belga Veitland, nonché il tedesco Eric Zabel. Male gli italiani con Paolini sesto e Pozzato, che dopo una buona azione personale non ha più avuto la forza per stare con i migliori nel finale. Ed è tutto per GR Sport di stamattina. Di nuovo buona giornata.